140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. A bordo di un furgoncino in giro per Milano. Il Natale più insolito? Quello al caldo del Brasile. È quello dei Selton, che nel 2017 hanno pubblicato il loro manifesto tropicale. Allora ragazzi, io voglio sapere intanto quanto si abbina il Natale col Brasile, perché il Brasile è un posto caldo, noi il Natale ce lo immaginiamo nella neve, ma com'è questo Natale? Come sono le feste in Brasile? Si mangia tanto come in Italia, meno forse, però si mangia e si suda. Sì. Cioè... Ma in effetti è una festa che è abbastanza surreale. Nel senso che entri nei centri commerciali, tutta quella neve finta, Babbo Natale sudato, questa roba qua. È un po' assurdo. Cioè, credo che lo spirito del Natale, quella cosa di regalarsi delle cose, di volersi del bene, c'è. Però, cioè, non è così nostra come cultura. È una cosa che si sente che arriva un po' da fuori. Tutta la comunicazione del Natale è una cosa fredda, neve, e poi non rispecchia la realtà, e quindi esatto. C'è sempre una sorta di paradosso, esatto, su quello che sta accadendo. Tolto questo, la roba di stare in famiglia è bella. Il vostro pop è leggerezza. Aiutatemi a spiegare, io faccio fatica a spiegare agli altri quanto il pop e la leggerezza non vogliano dire superficialità, vuole dire qualcos'altro. Ma guarda, questa è una sorta di cavallo di battaglia che abbiamo sempre avuto qua, perché quando siamo arrivati in Italia abbiamo notato che, non tanto adesso ma principalmente qualche anno fa, se non facevi musica depressa o incazzata non avevi spessore artistico. E questa è una cosa che nella cultura brasiliana è sempre stata molto presente, lo spessore artistico e la pseudo allegria, oppure vedere una canzone che sia uplifting, una canzone che sembra contenta come il samba, ma se vai a ascoltare le parole oppure vedere la complessità musicale che c'è dietro a quel pezzo, vedi che c'è un livello di spessore artistico gigante. Però spesso questo viene poco considerato. Ed è una cosa che ha notato anche Dave Byrne, che scrive anche in un suo libro, che quando per la prima volta è entrato in contatto con la cultura brasiliana se n'è accorto di questo paradosso, della pseudo leggerezza dei pezzi e dello spessore artistico che c'era dietro a quella cosa lì. È un po' una cosa che è importante parlare di questo paradosso in qualche modo, perché non è, la densità artistica non è fatta solo di incazzatura e tristezza. Com'era bello tenersi per mano, per mantenere promesse in un bagno, poi zoppicare felici per strada, prima di esplodere in una risata. Quando la luna non c'è, please ti ricordi di me, thank you. Thank you. Di notte illuminavi Copacabana, sotto il cielo di un'estate italiana. In alto e ci sei tu. Le vostre canzoni però sono esistenzialmente un antidoto al lunedì. Sì, vabbè, sull'ultimo disco abbiamo un pezzo che si chiama proprio Lunedì, no? Che parla un po' di quella sensazione lì di tornare alla routine, no? E di... del vedere la vita un po' come un loop. Però anche dell'importanza di uscire da questo loop, no? Di guardare più in là. Però è bella cosa che dici del... che è un po' un antidoto contro il lunedì, perché cioè, tante persone ci scrivono, ci vengono a dire delle cose veramente incredibili, che gli abbiamo aiutato a tanta gente in momenti difficili. No, cioè, mi ricordo una ragazza che ci ha detto che era andata a vivere, credo a Dublino, quindi stava passando un periodo molto duro, molto difficile, e ha detto che era molto depressa e che usciva dal lavoro, proprio scappava, entrava in macchina e metteva il nostro disco per riprendersi, no? E questa è una, cioè, sentirsi dire una cosa del genere per noi vuol dire tantissimo, perché vuol dire che la nostra musica ha un senso, no? Ultima domanda, ma l'hangover da cachaça, mm-hmm, tecnicamente com'è? Molto difficile da superare. Immaginati un hangover di grappa. Però bello. Però bello. Però bello, se ti ricordi qualcosa è bello. Esatto. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con i Selton. L'appuntamento con 140 caratteri è ogni sabato alle 15. Noi ci ritroviamo tra un'ora con RadioTube.